ho cambiato di non comprarle. Non è lì, si può andare a portarli tutto anche Picciolini. Per Paolo. Oh, buonasera a tutti. Buonasera di nuovo, Massimiliano. Guarda, me, da parte mia direzione la Maison e poi tutto il Roger. E Caragara, non ce le metti. E K e poi Roger. Caragara. Iaia. E beh, Chiara come sta? Giada, è Gaia, diciamo che è un pochettino di tosse, c'è ancora, la prendeva con un po' di antibiotica, rosole, però diciamo che sta bene, sta iniziando a mangiare, a giocare, tutto. Ma meglio così, da, via si risolve. Positivo, ieri ho visto a Barra Agricola, ho visto la macchina nuova. In altre giorni sei detto a quadrato sabato, questo è poco cammino di questa macchina Massimiliano, ma abusato, come accelera ti porta indietro, oh, un cazzo, proprio una cosa allucinante. Ti ho detto che 120 cavalli l'ha fatto al centralino, l'ha portato a 150. Ehi, cazzo allucinante, no, ma è bella quella macchina, cioè è bella, a me non piace più di tanto, mi piace più quella 5 forte, però vabbè, per lui ha voglia. La giardellina è sportiva quella lì, una macchina sportiva, quella l'ha pagata manco molto. Oh, quella è regalata, vabbè, però quando la prendi a privato così, ho già devi avere un po' di soldini da parte, contanti. Diciamo, se non ce li hai, vai dalla finanziaria, ti fai dare i liquidi e la paghi. Vabbè, quello è vero. Ci sentiamo a più dopo se coincide, dai. Salutone a tutti e ci risentiamo, Gatta e Caparrodio. Salutami tutta la compiccola che è evidente. La pagava, a San Solo, sono solo, la picco. Da solo, si sentono la lavoro. Ho dato una commissione a una signora che mi ha dato mia moglie e adesso sto tornando a casa che deve venire la gente. Ah? Quindi non rientri? Io sto rientrando a casa già. Yeah, vabbè, sentiamo dopo allora. Avanti per Paolo. Ciao Massimiliano, ciao, buon proseguo di serata. Ciao per Paolo, dai, ci sentiamo o più tardi o domani mattina, capo. Senti quel capo a Rogero, muoio a Torino. E Caragara, ciao Massimiliano, ci sentiamo a più dopo, sì, avanti Gianni. Sì, dai, dai. Ma non si sente Giuseppe questi giorni, come mai? Giuseppe? Ehi, probabilmente c'è da fare. Caragara. C'era Franchetta che poco fa, poi io ho chiuso 5 minuti, detto che riprendeva, invece non si è fatto sentire. Adesso mi mangiamo pesce perché non c'è il posto dove andare. Il Franchetto sa sul canale 32 che sta cercando di parlare con la Spagna. Ci ha pagato. Andale, andale muchachitos natalinos. Via, via. Ciao, se no vedo. Ma non sei ancora rientrato? No, perché devo andare alle 9 a prendere Emanuele, sto aspettando, sto facendo l'aria. Gaba gaba. Non mi tocca stare lì, aspettarla e cosa, invece aspetto qua, poi allora che devo andare va. Facciamo cucchiaio a me o cucchiaio a te? Grazie. perché non li puoi mangiare. Ma non è che ci avevo a mangiare loro per fare male loro, a loro dopo, Ma ci fate il piacere, è proprio per sapere degli altri. K.K. Proprio di convenienza. Cioè tutti devono pensare alla mia di salute, io non devo pensare a quella degli altri. Ma gli altri non sono diabetici, per fare quello che c'è. Vabbè, ma io ci penso lo stesso, la salute. Un giorno, quando è domenica, avevamo a pranzo mia suocera e i miei cognati. E hanno portato questi dolci fatti in casa, per fare questi amaretti morbidi. Poi c'erano ricottelle, formaggelle e bianchetti. Ma ne ho assaggiato due, ma mi sembra che voleva mangiarmeli tutti, che tappo che ne rivolgo? È tutto zucchero, questa roba. E vabbè, infatti ne ho assaggiato uno di uno e uno dell'altro. Un amaretto e una formaggina, non ho mangiato. Un chilo di uno e un chilo dell'altro. Sono di uno, ma è un chilo. Ma cosa? Caffè, quella è una questa roba che dice lì, per Paolo guai. Poi per condimento, come secondo, così accompagnato, con risalata, una bella passata di polpette al sugo. Esatto. Gonfiano lo stomaco. Ah, ma quelle pastiglie di coso, ma no, ma di quelle non le voglio prendere. E se roba naturale, tipo un chilo di insalata, queste cose qui. Volevo far gonfiare invece la frutta. Veramente? Cazzo, mi sono mangiato 3 arance poco fa. E quello è, la frutta ti fa gonfiare quello stomaco, specialmente le arance. Magari le mele meno, ma le arance ha di brutto. Cioè, nella serie, cazzo, che sono morendo di fammi e non ha già seccato una. Tutto per queste cose, Giuseppe. E così, cazzo, domani dieta drastica, paghi su. Cazzo, ci la metti a stare giù, non ha giovagnato. Mi piace pietà, pietà. La buona almeno, Natale. Come la faccio io, cazzo, mi dice, guarda, come la faceva mia mamma. Mia mamma. La buona anima, cazzo. Una bomba. Ce l'ho detto buona. Ma vedi un po' come ci vuoi dire, la metto in giù e un unico al cioccolato, la vuoi. Cosa hai detto? Se mangiate ciò che volete, io mi trincio questo pulino al cioccolato. Devo riuscire a non alzarmi da qui, ma dai, tanto se bisogna che mi metta l'impegno. Stamattina mi sono bevuto 2 litri d'acqua in camion. Mamma mia, da buio gli avalti in pancia. Tu sei per drenare. Cappa, ma giù mai sono arrivato giù sul stabilimento, cazzo, hanno visto questa saetta entrando. Hanno detto, ma guarda, qualche litro è scappata. Cazzo, almeno ti sei purificato, stavo bene 2 litri d'acqua, Giuseppe, sto mangiando il guido al cioccolato. Ehi, cappa, ma io mi sono fermato, mi sono fermato solo alla saetta. Cazzo, mamma mia, mai ho corso così tanto in vita mia. Non mi ricordavo manco se avevo tirato il freno a mano del camion. Infatti c'è la ragioniere. Giuseppe, le bolle, su che rulliamo, via, non fuggi in presa del chivino. No, che se ne prenda ragioniere, c'ho chi presa. L'hai detto. Su. Sì, adesso me la sto portando. Oh, già ce l'ho sempre l'acqua in camion. Soltanto che stamattina sono rimasto senza. E adesso bisogna che me ne porti giù un'altra bottiglia da 2 litri e via. E i pannolini dietro. Un blister di carta igienica. Per Paolo! Non disturbate. Senti, oh, lo sentite come sta andando di mandibole? Deve essere così gustoso quel budino. E poi non è mai niente, lascio di più vado. Sì, bisogna che mi organizzi una dieta io, però dieta da persona seria, cioè che mi faccia una bella dieta settimanale. Non basta ridurre i pasti, va bene così. Più ridotti di quello che li ho ridotti, mannaggia. È tutto dentro la pentola. No, mangi un po' di tutto invece di abusarne, ne mangi meno. Mangia la metà di quello che mangiavi prima. Ecco, la mia tappa. Con questo allora vuol dire che se devo mangiare la metà, quindi adesso devo mangiare metà cordola, non più una cordola intera. È un diluvio. E come è che ne senti? Gli spaghetti invece di pulire un piatto pieno, mezzo piatto, hai un preso e poi mangiare tutto. Anzi, se prima gli spaghetti ti mangi di salata, un mezzo poco di salata, che la si vede, non c'è un arco, ne mangi ancora di marco. Però hanno detto che l'insalata così gonfia lo stesso, dice che vorrebbe cotta. Che pietro di faccia? scappa. Adesso comincio a saccheggiare qualche verduraio qui e poi faccio la piantagione qui a casa sul davanzale della finestra, le pietole fresche fresche. Quando stavo facendo l'età io facevo pietole come primo e poi una fettina, un baloncino, e quindi mia moglie ne comprava un bel pietole e quello del mercatino mi ha detto: ma chi è che ci mangia tutte queste pietole? Stavo guardando e sembrava di avere il microfono al contrario. No, già è giusto. E per confondere un pochino le acque, non sa, abbiamo comprato il coniglietto al bambino. Ma coniglietto vivo. Adesso bisogna, che poi le pietole sono buone, io le mangio. E niente, adesso bisogna che cominci anch'io. E poi sin quando non me ne stufo, mi come tutte le cose. Dunque, pratica non serve a niente, ma è la metà di quello che mangiavi prima. Vedrai che già abbassi di peso. Anzi, la metà è troppo bene, perché io ho dimagrito un mese mangiando la metà di quello che mangiavo prima e mi hanno detto che non andava bene così. Nella mia testa la cosa è giù, ho aumentato 2 kg. Adesso siccome ho ceduto 5 kg ho aumentato. Capita. Ora si sta avvicinando l'estate ed è peggio pure, che io in estate ingrasso, mamma mia. Non è tutta la adesso butta giù bene quel budino, magari dopo un pezzettino di tiramisù. No, non lo mangio, mi ho mangiato, sai, quelle forme grandi di budino, mi ho mangiato mezza forma. Cappa, e meno male mia dieta, mi pierpa. Vabbè, ma non mangio altro, hai mangiato quello. Cappa, io ho mangiato invece quei 2 ciuffetti di spaghetti, perché ero già 2 giorni che non toccavo pasta né carne. Ho mangiato quei 2 ciuffetti di spaghetti e 3 arance, però cade, mi pare che abbia fatto più danno di prima, perché gli spaghetti c'era il burro, le arance dice che fanno ingrassare lo stesso. No, adesso ti ho mangiato, già era tutta roba leggera, già era così, là ti ho mangiato praticamente un piatto calamari fritti, poi mi sono mangiato un po' di insalata, lattughe mista così, pomodori e via dicendo, e anche un po' di patatine fritte, va. Una cosa giusto così, una cosuccia diciamo, dai, leggera. Cazzo, io mi ha detto che se ci mangiate guai. E 2 minuti per me, arrivo subito. Occhio al frigorifero, fai la bravo Giuseppe. No, sto andando in bagno. La pisciatina chiama, scusate. Niente frigorifero, purtroppo. Sono commosso anch'io. Molla quella salsiccia, mi devo tentare. Che le pari mortacci due, che c'è veramente la salsiccia al frigo. Cosa a proposito? Non ti avevo aperto, ma dice che quella salsiccia deve essere buona, va? Ah, io devo vita di cosa fa fare. Ehi tu! A cosa fa fare? Devo fare la distanza di prolungamento lì. Ma fresco tu! È la militare, la volta se mi vuole. Mi ha fatto un bel palo, l'ho visto. Ehi, aia. Cazzo, sono a TV, aria, c'è anche una mattina, 2:30. No, è stato fotografiato, ti ho visto. Tu mi vedi la seduta in chi via, mi ha detto che era un direttore di Roma 7, allora la seduta in chi mi stava gente. E il mio direttore di Roma 7 mi ha detto. No, stavo aspettando l'automotoriera per gli attare. E tu eri arrivato in ritardo, non ti capito. Ciao Luca, mi hai sentito? Carpa, salutori, grazie. Buonasera, mamma, non mi hai sentito e ben trovato, Carpa. Dunque, un salutore a tutti, Davanti, Falchetto, ci sei. Tu fai, ma che Falchetto? Lì per il tuo, guarda, poi uno. Tranquillo che il frigorifero l'ho ignorato. Allora, dimmi di dire Cavagada. Sì, la portante. Mi sta mettendo, mi la portate. 41. Via 41. La portante mi ha messo. Ha detto di andare sul 41. Show. lasciamo perdere, se no ti faccio lasciare qualcosa più amaro. E tu ti pare che io mi devo spostare sul 40, sul 41, devo andare altri canali perché devo... mi blocca di sentire gli altri, però... mentre qualche soldo in mano, quello strumento lo compro, e che sta voce un po' obbediente, le posso passare la fantasia e rompermi le scatole. K di positivo, ma non fatevi il sangue amaro, tanto magari siete tranquilli avanti, che sei giochenti con un rito, e magari noi stiamo lì a farci il sangue amaro per niente, perché come ho detto, fosse stato gente che è bene o male vale qualcosa, io dico me la posso prendere più di tanto. Ma dite gatte che non valgono manco uno schiaffo, gatte, non valgono manco uno schiaffo, per l'amor di Dio. Quasi giù che lo voglio acquistare quella strumentazione lì. Ma pure lo posso passare solo macchine, li posso passare. A chi non mi può dire che non è vero, non mi può dire, ma prima o poi avrà a vedere che è tutto, questo te lo dico io. Infatti se ci sono i mezzi si può mettere a tacere in ogni momento quella gente lì, quindi senza nemmeno sporcarsi le mani, perché cioè non ne vale manco la pena. Ma stai scherzando, rischiare la galera per quella gente lì, se la rischio quasi per gente come si deve. Serve anche per altre cose, quindi ma quando ci avrò qualche soldo in mano lo piglio uno strumento del genere, che ci fa una mano, quello che ti abbiamo detto noi e via, e può servire anche per altre cose eccetera eccetera. A voi che passano macchine. Ma beh, certo, ma che poi anche con quell'altra storia là, facendo intervenire a loro, loro già lo sentono il rumore da dove arriva, anche se antenna fuori non ne hanno, non ti preoccupare. Ma gli lascio le palle, fa un imbecille, no? E vale la pena, ma comunque prima o poi le cose vengono sempre a galla. Quello è poco ma sicuro. Quello è sicuro, al 100, e prima o poi i nomi al 20 ne vengono. Ragazzo, ma si la piglia in culo, è miserabile. E infatti, se la può prendere la mano ci tocca al sole. Gianni, sei rientrato? Gianni Maciuzzetti. Sto a tenere il pigiama, scusa un attimo. Mettendo il pigiama. Kappa, pigiamino. Io la notte invece non lo sopporto. Se c'è un pigiamone, un pigiamino. Come vuoi fare, Giuseppe? La notte non lo sopporto. Perché lo metti di giorno? No. Di giorno lo posso mettere quando sono in casa. Oppure al posto di mettere una tuta, un pantalone di pigiama e così via, ma la notte no, comincia tutto a passare da un moscio, un oretto, gnò. Sì, vedi, ti muove troppo, hai detto, eh? Io sto sempre scappando. Ma chi ancora non lo so, però un di volte mi sveglio e dico, ma e avanti devo andare io? Sai cosa, io mi sono preso invece un'abitudine brutta. Ossia? Devo dormire con quattro cuscini. No, cavolo, troppo alto. No, non nella testa. Vuole un fianco uno e l'altro. Ma non muoverti. Siccome pieno Parigi così, no? E stai bello a livello così, Pierpa. Ma delle volte è la posizione ideale, capito? Altrimenti tocca l'altro. Sono aiuti che non lo sopporto neanche così e tocca alzarmi direttamente. E a stare gira e ti gira perché non mi passa con niente. Figurati, niente sarà, gnò. Ma io c'è stato un periodo che il cuscino proprio non lo volevo. Cioè, me lo mettevo a un fianco e dormivo così con la testa sul materasso. Alla torra mi ha fatto Romacchini, via di nuovo col cuscino. Non mi piaceva neanche a me, però da che così devo dormire in una certa posizione. Perché se no devo essere con la schiena un po' sollevata e il fianco girato. E ora faccio mangiare il capito delle burro alla rabbagna, perché prima ne mettevo due per sollevarmi bene la gamba. Poi è finito il fianco, adesso sono finito sempre così. Però delle volte, quando non c'è il rimedio per niente, non ho né alzata né abbasciata, nulla. E rimettevo un altro sotto la schiena per sollevarmi, quando lo finisci, lo finisci. E poi guarda, non c'è cosa più brutta che quando hai qualche dolore quando sei a letto, no, per carità, già quando sei in piedi durante il giorno, per dire, no, hai qualche dolore ed è già fastidioso, figurati quando tutto intorno a te è silenzio, no, magari hai anche sonno, nonostante tutto, però niente, già, mamma mia, guarda, la notte il dolore è insopportabile. Ehi, a me, ormai ci convivo con questo dolore, se vuoi lo passo totalmente in bianco, eh. Figurati, dopo una giornata di lavoro ci vuole anche quello, e così abbiamo fatto 30 e 31. Delle volte io esco anche la mattina, che non so se sono stanco, se sono esausto, ma... Non risolvo neanche io, comunque vado lo stesso, ma ci vado per l'inerzia. Ci credo. Ma funziona così. Le nuove leve sono che al minimo starnuto, Pierpa. A casa, la pastiglietta, a letto e tutti gli cosi. Io guardo, i 24 anni che sono lì giù, forse le conto sul palmo di una mano le volte che sono stato a casa, ma a casa proprio perché non riuscivo manco a pesare minni. Capo, vedi sabato notte, sono andato poi a sedermi in macchina perché anche lì mi stava prendendo male, faceva già male tutto il fianco, sono andato a sedermi, poi sono arrivato a casa e ho avuto il mal forte subito. Mamma mia cara. Avanti, buon buio. A tutti. Buonasera Antonello Antonio, buonasera e ben sentito. A quanto è parato il 45? Cappa, buonasera e ben sentito Antonello. Avanti a chi tocca. Buonasera e ben sentito Giuseppe. Ma sì, buonanotte, quando andrò in numero di gioco Antonello. Ciao Pierpa, buonasera, ben sentito, salutoni. Anche Giuseppe, non so che ci sia di altro. Avanti, Gianni Doppio Rum. Ehi, cavagama. Hai visto guardando un po' la posta elettronica? Qua. Ehi, stavo sentendo, Pierpa, mi ricordo quando c'era voi e i dolori per menisco. Per alzarmi la gamba, sai cosa avevo imparato a fare per non disturbare nessuno? Mi mettevo il piede sotto il piede della gamba che mi faceva male e me l'alzavo con la gamba sana. Sì, lo voglio. Non sono belli i dolori, Non sono belli, no. Ciao Antonio, sono il tuo cappè. Antonio, tu non hai dolori, non ti la putta sai. Dirà a tutti tu, dirà a tutti lo... una bella passata di tubo di Ethernet in testa da 4 metri e mezzo, non ho ricevuto manco una riga, figurati tu se non ne ho dolori. Più una volta sono caduto in via Levante, mi hanno soccorso e gli ho detto che non me ne frega niente, ma la parola provenienza ci ha avuto tutti le bruci, figurati. Che hanno dolori io a Puglia. No, quella già mi funziona ancora, perché ogni tanto vado a farmi ingessare al centro storico. Oh, se non sei caduto dove hai più di no, no, non cado io al centro storico, sono gli altri che dice lì. Sta attento a quello lì, sta attento lì, non ti preoccupare. Ho detto, va bene. Tu hai sentito, hai caduto le pietrine lì al centro storico? Cappa di positivo. Sono perda questo qua che è un maniaco. Chi è maniaco? Io? Io. Dopo pure maniaco sono. No, maniaco no, ma maniaco come diceva tu, dicevo di farlo sì, Maniaco diceva. Il tuo amico è quello, Non credo proprio, no. Anche se non è stato l'antenna, non era con l'ascesa, cazzo. È la policata che c'ha, gli si è tirato il palo, ma la terra non cade, E chi è questo? Già lo conosce Pier Paolo. Anzi, li conosce, che sono in tre. Comunque sia, ci ha rubato male che c'è l'antenna, si è pigliato col palo, ma è ancora lì, testa per festa. Brava, già ne è finito, ero la posta. No, guarda tu la legge, la sì, non la buona. Che ti scrive il papà? Le amanti ci hanno capito. Adesso bisogna chiamarlo Gianni, non doppio nome, Gianni il Saldo. Giuseppe! Avanti vela! L'altro giorno ho guardato, ce l'avevo 108! 108 cose da legge di posta elettronica! Ho preso, ho fatto la crocetta su tutti i loro itinerati. Cappa, così ho fatto avanti io. E crocetta direttamente nel quadratino elimina. Cavo, viene la bocca di casino in questo coso. No, ho detto troppo tempo ci vuole. È un paio di giorni senza legge, lo sai, c'è il diritto a vedere con accedi. Sì, spostatevi un bel. per toccare, poi si cacciava vette e tutti gli apparecchi che gli... tutti ci spacciano tutti ce li hai, non vedo non usavo qua. Comunque per la sera capito che sentito, io ti sento spostato di... più o meno, la verità, non in più. Capito? Avanti, troppa, lo senti a K2? È fuori frequente, spostato di 10 kHz. No, 10 no, ma 4-5 sì. 10-10, segna qua, mi separa, te lo dico subito. Ciao Pierpaolo, perché quando ti ho fatto l'auto come stare in quella scena di quelle che abbia portato con la tramona qua che... secondo capitolo di quanto si è spostato. Ora, è così ancora, bisogna non solo più agire adesso dentro. Non posso anche aprire, però non so neanche cosa toccare, ci vuole frequentimento per rimetterlo a posto. Allora sì, 27, 410 per esattezza. Quindi si è frequenza pari. Non è questione di cosa, questa è roba di PLL, che non sta lavorando bene. Si è spostato di un po', non di molto ma di un po', quindi sta succedendo 627 410. Canale 41 per la testa. Beh, certo ti ascolto, displatte ti ascolto, lo racconto subito, aiuto chi è questo che sta facendo con un disgraziato? E noi tu, figurati. Se beh, se siete qua a pari, ce lo credo, che fa così. E girate, dai, fai girare, non siamo a perdere tempo, rimango un ascolto. Io credo che la Gianni. Andiamo a capri due, ben sentito, sebbene si può dire, perché non ti ho sentito bene per niente. Cosa combinare? TC comunque non c'è più il numero del telefono, tu non posso darti niente. Gianni, vai sulle 27410, riesci a sentirlo a Gianni Capri 2. Io qua lo sento. Beh, sento tappare in pratica. Già sento anche io, sento anche bene. Però adesso c'è un problema mio, il discorso è questo. Aspetta un attimo, vedere cosa è successo qua. Attento Gianni Capri 2, se vai copiando Giuseppe K. Sì, io qua ti sento Gianni. Però io non ti sento bene Giuseppe. E adesso lo senti bene? Gianni. Sì. Che ti sento a te? Ehi, dimmi, mi ascolti? Sì, ma già ne do più uno a darmi il QTC. Allora Gianni, adesso mi dai il QTC. La fa Gianni, naturalmente. Sto più a Gianni Capri 2. Quella roba tu hai già comprata, Gianni. Gianni, quella roba tu hai comprata, adesso. Quale roba? Ha detto lui. Gli ho risposto. Quella dell'acquario. Quella dell'acquario. E tu ti sposo della rigato. Marito. Dottore, sciate, è quello che mi ha detto il tuo amore. Sposo la di preferenza, siete. Dottore, sciate, ha detto. Ma controllo, già, non ho capito. cosa? Quanto hai speso? Quanto hai speso, Gianni? Quanto hai speso? 100 euro. Ma che non è vero, 30 euro. Ma poi ecco, non picchia, vedrai tu a te. €200 per quella roba, per quell'acquario, se sei contento con l'acquario, mi sa che è meglio che compri i pesci dalla casa di tutti, o compri due, al mercato che lui c'è a me e ti faccio lo sconto di 30 euro, vi. Ma tu vuoi che poi cosa mi ha detto? Non prende neanche l'ossigenatore. Già, tutta quella roba ha speso 30 euro, non te ne che tua moglie prima dice la cosa e poi ne fa un'altra. Proprio rum. Scusami, cosa sono 30 euro? Se tu ce li hai, di quale problema? Chiami proprio rum? Eia? Se ti sposti sul 40 normale, Gianni Capri 2 lo senti. Ha detto Gianni che ha speso 30 euro in tutta la roba, hai capito? Quanto 30? Eia! Come? Ha sotto capito, Ma fare su 40 Gianni che ha capolato! Sono qua, io ti sento bene qua. Ehi, ascolta Gianni, vai 40, è normale. Anzi, sì, vai 40 normale. Così vi sentite più chiari, se no questo qui capisce gli uffici fuori, stanotte è capace che fa un omicidio capri due con la moglie, se la matta stanotte per la roba di quell'acquario. Ehi, amica, se io ho detto comprate solo la sabbia. Gianni. Vabbè, mi tengo tutto io, non c'è problema, comprate con la voi la sabbia, ma la tengo io la roba. €30 Tua moglie mi ha detto di prendere anche l'ossigenatore, vabbè comunque non ne voglio parlare qua là. Ma se io non ero portato solo la sabbia, già è un gestato lui quella qua, è un gestato lui. Comunque da più per €30 c'è tutto quanto, scusami, non vedo quale problema per €30, scusa. Quindi, se anche hai detto una cosa, comunque va bene, non so cosa fa la macchina, solo la gente magari pensava e cosa vuol dire, potete dirmi. Vi telefonate al limite, cosa vuol dire, comunque per €30 è regalata tutta quella roba. Ehi, il telefono non è molto regalato, che regina lei, io il telefono non ce l'ho, hai capito? Mia moglie non è qui, mia moglie è fuori. Vabbè, ho capito. Comunque sia, la roba l'ha presa. Al limite se non la usa, detto che se la tiene Gianni, capito? Con la troppo 30 euro, boh, a me mi pare regalata qualcosa. Io l'avrei presa, non è che sia questo granché. Ehi, va bene questo, va bene, mi va bene, non c'è problema. Ok, allora chiudo il discorso, non c'è problema. Chiusa la parentesi da una parte all'altra e tutto quanto a posto. Capito Gianni, tutto a posto, a tutti i dinni. Quindi al limite quando vi trovate e la roba eccetera eccetera. Ok, io sono pensato solo a stati, capito? Sono per l'attuale è piccolino, non è una roba, hai capito? E comunque già ne fatti a posto in casa non c'era 50 poi. No, perché in quel canale non mi capisco io, non vediamo qui o niente da fare. Vabbè, ma comunque sì, non è che sta questa cosa spesa, 30 euro, questo. Se vai al bar insieme a me, devi spendere anche 40, te lo dico io. Non c'è problema. Non c'è problema, io avrei pensato solo la sala, non c'è problema. Che ti sei soccolato, disse, no, stava scherzando, non può parlare, ma non c'è solo ancora, te lo cerco io, non ti scompare. Doppio tu, doppia sei a tu, non c'è problema. Tutto a posto. Non c'è problema. guarda. Pierpa. Pierpa. Non so manco cosa dirti, ti dico la verità. E doppio room non so se ci sia qui. Gianni, ci sei? Sì, ci sono qua. Ah, è KK, là. Ok, siamo tutti qui. Non è la cosa. Antonio è rimasto sul 40 con il KP2, cava. KP2, eccetera, eccetera. 30 a 40 euro. Ecco. 120 canali. Ecco, non ero io, sono una vecchia là. La vecchia regalata per lì, ma non mangio. Qualcuno dove sei appeso a Bobby? Ci mancherebbe altro. Antonello Bombonio che stava parlando sul 40 ancora con lui, ma infatti anche lui gliel'ha detto Antonello, no? Dice, ma se le ha prese quelle cose vuol dire che qualcuno gliel'avrà detto. E infatti poi sono scappato subito perché già non mi vedono, quindi sentire non è che sia reato. E niente, gli stava cercando un po' di spiegargli l'Antonello Pomponio, riesci a vedere un pochino sul 40, aspetta un secondo solo per qua, oppure andiamo e poi ci rispostiamo di nuovo qua sul 19. Brava. Per qua? Sentime. La cosa è malmessa lì in misca, ci ha avvitato. Stavo uscendo che era un bijou. Ho ragione io a casa a prendermi i piedi, andare a coricarmi Pierpa e non pensare al mangiare. Cosa c'entra adesso il mangiare? Non ascolto le scacciavitate, che guarda, se a girare sul 40 e diviene 4, siccome mi conosco come sono fatto io, no? È meglio che rimanga buono, e per rimanere buono è meglio che spenga. Rimane qua, sei tranquillo. Cazzo, ma è la stessa cosa che io adesso. Prendo il 48 che sta uscendo, bene, mi bongo in chiwi, tolgo le 4 viti, tolgo i coperchi e bongo in chiwi a inciampruglia. Ma cosa deve inciampruigliare se la cosa sta andando bene? Non hai ancora capito che non sai dire la roba contro, di lasciarla come tempo. Adesso ho sentito, vado a prendere il cacciavitino e cose, infatti gli ho detto, io fuggi. Poi non sanno toccare niente, si mettono a toccare. Infatti io guarda, per il danno che avevo già fatto ho preferito fermarmi, ma è giusto per darmi quel pochino di energia per poter uscire quei pochi giorni. Però poi mi sono accorto che stava girando male e mi sono fermato lì. Tanto era inutile stare lì a aprirlo altre 30 volte per fare ancora più danno. Punto. Si abbassa la testa, si dice, con un pochino di umiltà, guarda che io questo lavoro qui non sono in condizione di farlo. E che cosa è? Certo non abbiamo perso l'amicizia. Infatti, anch'io mi fermo quando non arrivo dove arrivo, poi mi fermo. Cioè, quando non lo so, non lo so. Certo, è così ho fatto anch'io. Ascoltate, io più di quello. D'altronde certe cose bisogna anche ammetterle tranquillamente. Non muore nessuno, tutti siamo sotto questo cielo. Porca miseria, non è che tutti quanti siamo perfetti. Io una cosa, l'ho controllata. Io sono riuscito a sistemarla, appunto mi sono fermato. Ho chiesto aiuto, una mano mi è stata tesa e pronti. Non è che sono stato lì a fare cosa, portare dal tecnico perché non voglio che mi amici sappiano che al posto di mettere quei tre fili lì ha già fatto una cagata, scusando della frase, è successo così, ciccia, però non sto lì a rovinare, a far più danno di quello che... Vabbè, diciamo che uno ci prova, c'è una cosa fattibile, magari poi se uno non lo sa, non è che uno ci prova, però poi bisogna anche fermarsi, capito, bisogna sapere trovare il momento di fermarsi. Ma scacciavitare no, quello non lo accetto. Ci sono le cose che si possono fare, ci sono le cose che non si possono fare. Proviamo un circuito, ci vuole meno di mezzo secondo, un attimo. E poi trovateli ai miei, quei circuiti con quelle saldature una vicino all'altra, mamma mia cara. Vabbè, Giuseppe, quella era una cosa, sono sicuro che l'avresti saputa fare. Non sono sicuro che non sei così profano, se lo vedi fare una volta magari poi lo sai. Era semplicemente che bisognava avere succhiare lo stagno dal punto giusto, ricostruire la saldatura, e quelle sono saldature che vanno fatte, cioè, quei tre carri così che sono, è un rame particolare, va scaldato bene, e va tagliato più, va messo la parte tagliante, tagliato bene, poi l'ho messo con una garanzia di taglio, almeno 0,35, perché deve essere una saldatura molto dura, perché quelli assorbono, scaldano, capito, e quindi scaldando, se lo taglio non è bello solido, fa la soffiatura alle cose. Tra l'altro, io non avevo un 0,25, ma dovrebbe andare bene perché l'ho tagliato bene, quindi dovrebbe essere solidato bene. Certo è che ci sarebbe voluto anche di più, se non 0,50 pure per essere più duro, ma già va bene lo stesso. Figurati, vedi, ad esempio a me quelle cose per soffiare lo stagno mi manca e prima o poi me lo dovrò comprare, quella specie di pennina se non lo sbaglio, no? Sì, ma quello per fare le soldature come fai? A tirar fuori quei pizzi così come fai? Se non c'è quello, viene una cosa quasi impossibile. Infatti, ecco perché mi sono fermato, cioè se non hai l'attrezzatura devi avere anche l'attrezzatura e la capacità, devi avere anche l'umiltà di dire non lo so fare, punto. Perché non l'ha mai visto fare, ripeto, se lo vede fare lo fai subito perché e lo so, c'è un po' l'attenzione tirando fuori perché ci sono le finali attaccate a tutto il circuito e quindi c'è un po' l'attenzione. Ma già si fa con pazienza e con attenzione, si fa tutto. Quei due affari neri che erano attaccati a quella griglietta con le alette, quelli sono i due finali, vero? Certo che sì. Quelli sono due finali. Quindi vanno attaccati lì, proprio in quella griglietta lì per raffreddare, perché prende più aria con le alette. Perché quelle sono delle, quelle si chiamano dissipatore, non so, ricordatelo, quelle si chiamano dissipatore, si chiama. Quello è un dissipatore dove le finali scaricano la loro temperatura, capito? Scaricano la loro temperatura su quel pezzo di coso che il bracket di calo diffonde a tutto il dissipatore, no? E fa meno che scaldino loro da sole. Addirittura delle volte sul dissipatore ci si mette anche una ventolina così per raffreddare il dissipatore, lo prendo di più le finali. E serve per quello, proprio per dissipare il calore. Si chiama dissipatore perché dissipa il calore. A proposito di ventolina, sono stato anche da questo cavolo di cinesi e stamattina con la speranza che ce l'avessero, questa benedetta ventolina, e invece mi stava dando un ventilatore piccolino. No, ma te l'ho detto a voi, ce l'ho io, ce l'ho qualcuno io. Perché io gliela vorrei mettere? Gliela vorrei mettere perché ci sono dei momenti che scaldano. Io non c'è problema, se ce l'ho. E dove le posso comprare poi? Dove dovrei servire qualcun altro per l'altra? Non le compri quelle non le trovi sugli alimentatori di computer vecchi, cose così. Ah, ho capito, buonanotte. Quelle mica le vendono, non le vendono, quelle sono dentro, non so se le avessi, c'hanno i switching dentro, gli alimentatori di computer, no, dei PC. C'hanno quelle ventoline, e quelle lì sono. Ho capito. E prendo lo stesso l'alimentazione dal coso, dall'alimentatore, da questo qua. Sì, basta collegare i fili. Io ce l'ho con un interruttore, a parte, l'accendo. O lo lascio acceso o lo accendo quando voglio io, perché molte volte è meglio farlo scaldare anche un pochettino. Certo, quello sì. Ma non vendo cosa, mi procuro due bananine e una la tengo inserita e poi l'altra quando vedo che la cosa sta andando male gliela posso inserire e via. Eccomi. Ecco Gianni, ben trovato. Ciao Gianni, ben ritrovato, sei arrivato? Ehi, sono arrivato. Ho controllato tutto, ci sono molte cose interessanti. Molte cose interessanti? qua pagava. Cosa è successo? Sulla cosa che mi hanno scritto là. Ah, in quel senso. Ehi. Vuol dire che in mani migliori non potevo darlo, senza falsa modestia, naturalmente. Mi deve dare un po' più di tempo solo fino a sabato, Non c'è problema, Pierpa, io sto uscendo lo stesso. Mi senti? Kappa, no, vabbè, per esempio un po' più di tempo ci vuole. Non c'è problema, Pierpa, non metterti problemi. Kappa, vabbè, io lo faccio direttamente tra piccolo e avventurino. Troppo buono, avrei pagato per un mese. Mi sa che sto cercando di smettere il bere caffè. Veramente, io già non ne bevo niente, ma ne conosco che ne bevono, troppo. Che ero di quelli sono io? Già, ne bevo io caffè. No, come va? Pochi ne bevo, che dici? Allora, uno la mattina con il latte e uno dopo pranzo. E adesso io sono a guardare, ma io posso pure 4, 5, 6, No, io a quelli no. A parte che io, se fu ipertensione, mi farebbe salire la pressione a 1000. Che lo dici? Allora io ne prendo uno per abitudine prima di uscire da casa, poi ne prendo subito un altro, dopo arrivo a perdere il conto, dopo pranzo non c'è due o tre, Cavolo. Ma vedi, qua, non so se si sente, qua noi possiamo stare tranquilli e dormire, perché c'è vecchio, e sono le 21:50, sì. A quest'ora stanno facendo i lavori, stanno martellando, hai visto? Caspita, e cosa hanno aperto? Qualche cantiere? Qua aprono i cantieri anche a mezzanotte. Che se roba la mattina? No, mamma mia. Qua è così, E allora? Sì, non appena che posso, hai occhi. Via, vai. Guarda, un terno all'otto faresti. Senti. Ma ci sente? Cappa. Fagli complimenti da parte mia. Ci vogliono i nuovi attavano i condomini. Ci hanno messo le norme di comportamento condominiale. Come minimo bisogna anche attenersi alle regole del comportamento dei condomini, ci mancherebbe altro, se no ritorneremo tutti quanti all'era dei faroesi, tutti con la pistola e ognuno si fa legge per conto suo. Un attimino, c'è chi esagera anche dall'altra parte, Giuseppe. A me mi bussava il muro quando parlavo alla radio. Addirittura. Già l'ha smessa pure. Ne ho detto quasi quattro paroline dolci e l'ha smessa. E non la buona. Vabbè, così c'è troppo, E poi l'orario normale, non è che ti sto dicendo a mezzanotte, a luna di notte. L'orario normale verso le 10, 9 e mezza, 10. E non potevo manco modulare anche se cavare lungo. Un giorno mi sono affacciato la finestra e gli ho detto tutti i colori. Mi ha sentito tutto il palazzo. E questo scoppiato da dove le hanno scappati? Non c'è nessuno. Da dove mi è giunto? Ma da dove è giunto può pure durare. Non so come l'ha mandata. No, non era finita la poi. Io anche se a me se non cercava faccio quello che mi pare, naturalmente non facendo casino, ma se uno parla, una volta parlando, giocando col bambino sul letto, con il piccolino, mi ha telefonato per dirmi se la potevo smettere di fare casino. Allora lì bisogna intervenire un attimino di cose, allora lì bisogna entrare in scivolata, anzi in tackle. Quando piange la bambina si mette il barbuccio di volta. Mi sono rotto le palle adesso di questo cazzo di bambina, un po' di parolacce. Poi si trovava in strada, io faccio una cosa del genere. Questo giorno ho preso qui la testa, io con i carrocchi non vi vinco. Barosa, Barosa. Ah, il coraggio sporco di Barosa. A chi? Che si lamenta di questa che non viene la pizzina? Ma tu devi pure un timer che c'è pizzina. A chi mi devo bisaghizzo? Le tasche per fare una cosa, vattene a casa Serena se sei così intollerante. Oia, provare dare in ogni, ma è in tutti i posti, chi più chi meno c'è sempre la pecora nera e nei palazzi. Vabbè, ma è troppo storpia, tante volte i bambini già fanno casino, ma sempre negli orari, Marco corre, gioca, come tutti i bambini. Tata, vuol dire che sono sani? Ma io penso che ne abbiano anche diritto, i bambini devono fare anche i bambini. Quello è normale, quello è poco ma sicuro. Sono i grandi che devono fare i grandi che devono fare i bambini. Ma infatti, perché non li puoi mettere il tappo in bocca, ma se piangono quando sono neonati, Giuseppe. E io posso capire che dia fastidio, però io tante volte sento quella dice, non è che metta a far casino perché piange la bambina, o che c'è la febbre, che mi dice quando mi trovo nelle scale, la l'ha disturbata, stava a piscina, non c'è problema. Non siamo manco primitivi, no? Io vivo, lascio vivere. Fatta di positivo. Ma a proposito di vivere e lascia vivere, Gianni, ce ne facciamo due belle lenzuola di cavallo agli prezzemolo? Quando verresti tu? Ma io accendo il barbecue, io me le faccio adesso. Mi adatti. Guarda, mi stanno passando per la mente tante di quelle cose, però ti giuro che non tocco niente. Da più magari poi se mezza mela, ma non di più. A te non c'è problema. Ma io pensavo in greffa, che te le volessi fare in greffa in campagna di qualcuno. Magari. No, io adesso, buttarle giù adesso, visto che siamo a dieta. Non me lo dici così, Giuseppe, caro. Mamma mia, cara. Oh, quanto erano buone quelle di Pasquetta, comunque. Fatte lì, ma è proprio vero, è fuori casa la roba ha tutt'altro sapore. Io periodo andavo, adesso non sto più andando. Un periodo andavo anche d'inverno, quando c'era una bella giornata, andavamo all'aperto, all'ostile, con un amico, la famiglia. Adesso un po' sono dai pariti, un po' qua là e ci siamo persi un po' di vista, anche se ogni tanto ci vediamo. Ma prima andavamo in montagna, da tutte le parti, San Leonardo, come si chiama quell'altro paese vicino a Ploaghe, che ci vive anche vicino a Cagliari, non mi viene, vabbè. Comunque in tanti posti siamo andati. Siamo stati anche a Coso, in quel posto dove sei stato tu, siamo stati molto bene. Avevamo porcette, avevamo bistecche, di tutto avevamo. Poi ho detto che c'era la gente di Polatosa, poi tutta roba di pesce, i gamberoni, aragosta. E ci abbiamo scambiato un po' in pasta. E noi il giorno lì a Pasquetta abbiamo trovato due greffe, ma gente anche più grande di me, di Porto Torres, e niente, subito sono avvicinati, no? Facciamo così, facciamo colà, diamoci del tuno, stiamo lì a coso, bim bum bam, abbiamo messo 1, 2, 3, 4 sacchetti di carbone per quanto è grande il barbecue, abbiamo acceso il fuoco e dopo un paio d'ore era già tutto pronto, braccia a quanto ce n'era e niente, roba da mangiare ci voleva solo. Sì, Giuseppe, con tutta la legna libera avete sprecato il carbone. Lo so, ma la legna per la roba che c'era da cucinare non ce la faceva già. Legna già ce n'era pronta, hai voglia. lì la preparano sotto il barbecue, non c'era sotto il barbecue, la preparano lì e poi ce ne sono tante dietro. Da... io ho usato la legna. Io ho usato la legna per cucinare, ha fatto troppo buona la roba. Sì, legna ce n'era, era tutto pieno sotto. Sotto il barbecue era tutto pieno. Però per tenere braccia ci voleva lui già. Ci voleva lui perché ci abbiamo provato. E ti dico che siamo andati alla grande. Cavaga. Ti credo perché lo so che anche le cosce di pollo sono più buone fatte così. Ne abbiamo portato un paio per la bambina, tardano a cucinare, guarda, perché noi ne abbiamo iniziata con la carne, ho fatto anche i gamberoni nella teglia lì, già conditi, e pronti da casa, sai come hanno cucinato bene, e poi dolci in fondo, tolto tutto, ripulita la graticola, ne l'abbiamo finita con un paio di chili di sardine. Vai, ma ti stavo dicendo, perché mi devi fare i buchi col coltello a fianco all'osso, alla cuscia? Sì, fatti in maniera che cucinassero, ma piano piano comunque gli hanno cucinato bene e ti dico che erano belle croccanti. Piero Griglia, Pierpa, ci vuole far vedere la colina in bocca di Giuseppe. Che è meglio mangiare tre fette di panettone che uno di colomba, perché è molto più dolce. Dì agli etologo se c'è un fucile a carne molte, stasera scende e faccio la strage. Se non mi sentite domani vuol dire che mi hanno arrestato. Sono mobile, però non ci tiro molto, anzi non ci tiro quasi niente, se no l'avrei già fatta fuori. Si dorme alla grande, tu non hai mai sognato, ma questa c'è il ripieno, caso alla fine del mondo, è la crema colata, c'è la colpa, una parte c'è la crema limoncella, l'altra c'è la crema mirto, mamma mia. Appa. Gianni Doppio Ru, senti come vigliacco stasera. Signore Elia, lo sai, a Codrongiano. Io mi porto il bidone, ho i bidoni su a Tempio e via, poi le bottiglie me lo travaso qui, però so che è acqua buona. Capo, quella c'è tutta acqua buona. Ma la sorte, ma la sisa è sempre sisa, e qualche sisa dovrebbe essere il prezzo più basso e c'è più aglio. Capo, ma non c'è solo sisa però, vedete il metterò che ti andrà a comprare Eva. Comprati la quercetta. Penso, più che ancora. La sandita. Più ancora. E allora devi opzionare la fria o per la tamara. Ma non me l'ha messa la sisa, non me l'ha messa la tamara. Ma c'è sempre quella fontana lì alla cantoniera e sulla strada di Osilo. Pagava. E sapete quanto è buona quell'acqua? Ah, che tutta inquinata adesso. C'è anche una sua, no, dove ti ho portato io, Giuseppe. Dove ti ho portato lì al di là dell'acqua. Ce n'è una su lì, è proprio in alto in alto. Cavolo, quella lì è un bel buono. E vedi, allora si può anche organizzare qualche volta. Si sale o con la mia, una volta qua. Però si carica e si porta giù l'acqua. Casa mia, vai, con la scusa di andare a fare una passeggiata, ma ce la fai andare a comprarti anche l'acqua alla cosa, supermarket? Io lo facevo, andavo a Florida a prendere l'acqua. E poi mi hanno detto che avevano trovato dei residui di inquinamento, roba del genere, mi sono più andato. Io la sto prendendo su a Tempio, su alla zona industriale, a fianco, diciamo che rimane dietro la sala vecchia per ordini. Lì ce ne sono tre di coso, di fontane, no? Però io la prendo dall'altra parte, dietro uno stabilimento di lavorazione di granito. Ma lo sai, quel tubo lì, un bidone da 20 litri te lo riempi in 20 secondi. Ma io quando andavo a Tempio la prendevo in quella fonte che c'è all'entrata proprio della città, dai, come entri a Tempio. Quello è Rinaggio. Rinaggio, c'era la transenna. La transenna col coso, inquinata di quello. Certo, l'ho letta. Adesso bisogna vedere che cosa ne viene fuori, perché non si sa, perché stava trascinando, c'era poca acqua, no? Però non mi sono più fidato a prenderla da lì. Ehi, possiamo salire anche a Florina, se ci sono dei messi in sesto le fontane, ce ne sono due, una attaccata all'altra, ai rubinetti, perché me l'ha spiegato un fontaniere, mi ha detto che praticamente uno la pesca dalla cisterna e l'altro invece è quella che scende diretta dalla fonte. E poi Florina si anche è qui dietro. E poi l'acqua è filtrata, capito? Io quando andavo a prendere l'acqua, mia moglie riempiva il bidone e andavo a fare i funghi lì dietro. Cos'è di altro la ritrovavi? Beh, ci posso credere. E poi una volta che si va lì nelle fonti, meno male gente ne trovi sempre. Basta chiedere e lì la gente del posto quello dice tranquillamente se l'acqua è buona. Qui c'era un pastore che rompeva le palle, quando sciacquava il bidone, anche se io li sciacquo a casa, però quando vado lì un po' una sciacquata le vado. Quando sciacquavo il bidone mi rompeva le scatole, diceva non si sprecava l'acqua così, che quella la usavano anche per curare i cavalli, che li faceva passare il raffreddore e la febbre, che era un'acqua medicamentosa di Twis. Vabbè, ma già ce n'è gente strana in giro mio, già. E si metteva lì vicino alla fonte e sgridava chi sciacquava il bidone. Ma vattene via, le pecore che giravano lì intorno, no, e lui busando che la controllava dall'alto. Io una volta ne ho trovato uno così, che era sempre si chiede di rompere le scatole uno all'altro, no? L'ho fatto riempire quasi fino a metà e cosa poi si è cominciato a sciocchittare, era giocato la doccia. Ma poi si è preso lo zecchino, oh scusi, lei c'era dietro, e non manco l'ho visto. Quindi, se si mette lì in mezzo alle scatole vedrai che la faccia già gliela lavo io. Paga. A Florina se... la prendeva mio suocero, prendeva e mi aveva detto, guarda Gianni che buona lì, vai lì. Ah, ha detto, non ci vado a pigliare, gliela porto io, quando vado gliela porto io, tanto io con lo station wagon ne caricavo roba di 200 litri. Figurati. Oia. E noi andiamo a comprarla l'acqua, mamma mia cara. Anche di più, perché con l'altra station wagon che avevo, c'avevo la valvolina, no? Nel coso del parabarile, nel cofano di dietro, quando dovevi caricare lì mettevi l'aria e si alzavano i cosi, gli ammortizzatori, come caricavi la portava a livello, capito? Poi una volta che scaricavi riscaricavi la valvola anche. Già è comoda, è sempre bella, a me ti aiuta sempre la macchina col bagagliaio grande. Ti mettevo un nylon grande sotto per non bagnarla, caricavo tutti i bidoni da 25 litri, anche di più ne caricavo io a volte, da 25 litri ne avevo 4, uno mi pare che era da 15 litri, ne avevo 2 da 5, insomma, già managliavo bene, e portavo qualcuno a mio socio, uno tanto per due gli bastava, andavo per dire una volta al mese, ma la prendevamo di passeggiata, si stava bene, c'era la campagna su, no? E i bambini andavano a giocare cose, noi gli stavamo di più come di due. Eh sì, è giusto, ed è giusto che sia così. Oia, avanti vela! No, poco fa, a proposito del pastore, stava dicendo che c'è una cosa. Mi avete fatto ricordare il vigile urbano di Belvino. E cosa ha fatto? Durante una serata lì a Belvino, proprio come c'era l'anfiteatro di Belvino, dove fanno le serate e le cose, c'era una serata e c'era una fontana, c'è proprio sotto, c'era la scuola, l'anfiteatro, la scuola, dietro la scuola, sotto la scuola, è tutto fontana a Belvino. La fontana vado lì e mi sciacquo la faccia e mi sono dato la rinfrescata. E mi chiamava messo così e mi voleva multare. Insomma, poi non mi ha multato più, però c'era sempre la faccia da pitbull. E durante la serata, insomma, gli ho fatto uno scherzetto, gli ho fatto comprare là dietro il palco, appoggiata alle genie, no? Dove c'è la cosa del scientifico americano. E lì tutto in ferro, no? E io mi sono fatto la seconda serata, ho scelto di fare la serata senza il palco. Durante la serata mi ho tolto il coso, la massa dal dimmer delle luci, come lui, perché ogni tanto si appoggiava piede in mano, e mi ha staccato il cavo della massa, gli ho appoggiato sopra, quando aveva toccato ancora c'era con Renni. È sceso persino il berretto in terra con Renni. Vendetta, approccio vendetta. Tanto gli ha dato una scarica, Giuseppe. Su quella serata, aspetta, è minimo c'era. Cosa c'era? Mi pare roba di 35.000 watt. Cazzo! Io di qualche orecchio gli ha arricciato a quello lì. Tanto si è uscito correndo, Giuseppe, poi ha mandato un'altra persona a dire che bisognava mettere in sicurezza perché ce ne aveva dato la scossa. E abbiamo controllato, no, non c'è niente, no, qua, abbiamo controllato, tutta la apparecchiatura stava andando tutta bene, e dico, non c'è dispersione. Figurati, io dico che su, sarà ancora quei capelli biondi. Dritti. Sembra che è uscito il cappello, perché quando ha preso la scossa gli sono addrizzati i capelli di colpo e il cappello è uscito fuori. E se ne era accorto, siccome c'era Ruggero, se ne è accorto il manager di Ruggero, se ne è accorto che c'era qualche cosa che non andava, no? E è venuto dietro il palco e ha chiesto di controllare attrezzature perché avevamo detto che c'era stata questa cosa e io gli ho detto, guarda, qua è tutto farle. Sì, ma devi bere dritti giusto. No, già, da sicuro sei uscito. Correggi, sei uscito, lo senza vedere la neve. Ma che? Che ti carica? Tanti che immagini la realizza, lo sai come te? E non è che è determinato tanto dalla corrente, lo so, come tu gli stati la massa, no? Che ha trovato tutto a massa. E diciamo, non succede niente, all'apparecchiatore non succede niente, però scarica sul ferro. Felici da mille. Come ti ha trovato la cavalcata, non che sa, sai? Che cosa hai combinato? Mamma mia. Non so se a Giuseppe è passata. Non le sopporto, guarda. Per me, io quando mi dico c'è anche la camicia adesso, mamma mia. Non le sopporto io perché non neanche ci vado, ma lo sai, io non ce l'ho per appunto per quel lavoro, per me era l'amore, lo so. Perché facevamo la cosa più piccola, la cosa più grande. Ma quando era la cavalcata per me, io se potevo, diciamo, cerchiare l'ostacolo e farmi buon lavoro come principale e prendermi un'altra serata, quella per me era la cosa più bella. Era un traguardo raggiunto quello. Mamma mia, sono qua. E tu dimenticare più che quando me la ricordo, cioè, ne ho fatto almeno uno, un così, ma sono spappato di quelle cavalcate. Però no, fanno schifo, guarda, non mi voglio neanche vedere. D'altronde vengono qua per scaricare tutto quello che hanno dentro e per ricaricare di rosso. Cazzo, Giuseppe, alle 4 di sera che iniziano fino alla 1 di notte. Lo so. No, io sono anni oramai che non ci vado, cioè non mi piace manco con l'ambiente. A me non mi piace la confusione. Una volta ha pregato il comitato dei festeggiamenti di Priato, aveva detto che dovevo parlare, dovevo fare due pari di 10 minuti questi due gruppi di quel partito, non me ne fregava neanche niente. Sarò sul padre della legge, non mi stava bene perché c'erano i collage, c'erano. È toccato spostare tutte le attrezzature per far posto per parlare questi qua, altrimenti dovevano mettere tutto, di riportare tutto avanti. Già quello non mi stava bene. In più salgo 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, un'ora e mezzo, e c'erano già quelli là anche preoccupati. Alla fine mi danno l'ordine, aiuto, cacca la musica, cacca tutto e fanno rifarà. Cazzo, ma l'ho fatto con piacere. Per poco non mi picchiano i venti, Giuseppe. Si sono incazzati, ma incazzati per un mese. Per me ci posso credere, togli da quelle parti di me, troppo. Ma sono proprio gli ho detto, gli ho staccato la musica e cosa, scendete dal palco, come me lo la torne, me l'ho fatto un piacere, mi si girano contro, cazzo di me non mi muovo la giusta in finti. D'altronde, e quando una cosa si deve fare si fa e via. Vabbè, però è una rottura di palle, dai, mamma mia, cazzo, guarda, per me quelli che odiavo erano quei canti lì, quei palli lì e poi i metallari. Una cosa bruissami, no, ma a me piace quella musica lì. Cazzo, guarda, non lo sai, ma io arrivato quelli che si festival del rock, cazzo, ma dice il rock non avere nel manco, ho proprio gli di metallari, di strumentali, prendo la chitarra, sembra che sia buttando metallo, cazzo, passa 4-5 ore così con questo cazzo delle chitarre, comunque io tamburo battendo, tum, guarda, se non hai mal di testa, sono mal di testa, ti trovano venire. Ma quello è il classico lavaggio del cervello. No, io ci sto anche ben lontano da quella musica lì perché proprio non ci vado d'accordo. Io ci si trova di queste cose, queste metallari così proprio, dice che è un complesso, non so, europeo, e alla fine del concerto questo qua ci avevo usanza di prendere la cosa, l'altra del microfono e spatterla contro il palco. E mi ha detto, occhio, che se lo fa prendere la mano. Come stava per finire il concerto, stavo andando all'ultimo brano, sono salito sul palco, mi sono messo in posizione, e gli ho detto, si tocca signori, me ne prendo pian pianino la via del letto. Oh, yeah. E domani si ricomincia, mi pierpa. Stavi dicendo la via del frigo. Gianni, la via del frigo prendevi. Cava. No, via del letto, frigorifero lo asciutai, no, veramente, dai, perché sennò va a finire che qui la cosa si mette male veramente. E niente, domani se riesco un pochino di verdura bollita e niente, cerco di tirare più che posso, perché così non va bene. Ma così è troppo, però è privato, sì. Ciao, io faccio il cuore di lo stesso, dai, esecutivo.